Guai a quelli che scendono in Egitto per cercare aiuto e confidano nei cavalli. Hanno fiducia nei carri perché numerosi e nei cavalieri perché molto potenti e non hanno riguardo per il Santo di Israele né cercano il Signore. Ma anche il assaggio e causerà il disastro. Non ritira le sue parole. Si ergerà contro la casa dei malfattori e contro l'aiuto di quelli che operano l'iniquità. L'egiziano è un uomo, non un Dio. I suoi cavalli sono carne, non spirito. Il Signore stenderà la mano. Il protettore inciamperà ed il protetto cadrà. Periranno tutti insieme. Perché così mi ha parlato il Signore. Come freme un leone o un leoncello per la preda, contro la quale si è riunito un gruppo di pastori, e non teme il loro grido e non cede al loro tumulto, così il Signore degli eserciti discenderà per guerreggiare sul monte Sion e sulla sua collina. Come uccelli che volano, così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme, la proteggerà, la salverà, la risparmierà e la libererà. Ritornate, o figli di Israele, a colui contro il quale vi siete completamente rivoltati. Sì, in quel giorno ognuno ripudierà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che le vostre mani peccatrici hanno fabbricato. La Siria cadrà sotto una spada che non è umana. La spada non umana la divorerà. Fuggirà davanti alla spada e i suoi guerrieri saranno resi schiavi. Nello spavento essa abbandonerà la sua rocca, i suoi capi tremeranno lontani dall'insegna. Oracolo del Signore che ha un fuoco in Sion ed una fornace in Gerusalemme.